Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e benvenuti a Magazine 24, appuntamento come sapete con i periodici, rassegna stampa dei periodici italiani e stranieri. Vorrei cominciare ricordandovi innanzitutto che c'è il primo numero dell'anno di Il in edicola con Il Sole 24 Ore. Cos'è Il? Per i pochissimi che ancora non lo sapessero, Il è il mensile del Sole 24 Ore, la sigla IL sta per Intelligence in Lifestyle. La sostanza è che trovate in vendita appunto con il nostro quotidiano, con Il Sole 24 Ore, un mensile dedicato a appunto articoli di approfondimento, di tendenza. Ci sono anche degli argomenti clou che ritornano nelle varie pagine del giornale e tutta una serie di rubriche, ma tutto questo lo potrete poi scoprire appunto sfogliando il numero che da ieri proponiamo in edicola, 174 pagine in questo numero, in questo primo numero del 2011. Vi voglio segnalare proprio da Il che il 2011 sarà un anno particolarmente importante per gli appassionati di rugby. Perché? Perché si giocheranno a settembre i mondiali di rugby in Nuova Zelanda. E voi sapete, o insomma chi segue il rugby anche in modo sporadico, sa che parliamo della patria degli All Blacks. Quindi insomma c'è un incontro, per così dire, tra una squadra che è un mito per gli appassionati di questo sport e quindi una nazione tutta che sostiene l'evento. Barbara Pezzotti da Auckland manda questa corrispondenza che viene appunto pubblicata su Il e dove ci racconta un po' come sono programmati i lavori e di quali importi. Infatti l'articolo comincia proprio così: un'iniezione da 500 milioni di dollari neozelandesi fanno quasi 280 milioni di euro per l'economia locale. Questo è quanto la Nuova Zelanda si aspetta dai prossimi campionati del mondo di rugby che ospiterà tra settembre e ottobre. La competizione si svolse per la prima volta nel 1987 proprio in Australia e Nuova Zelanda e porterà, queste sono le stime, 85.000 visitatori stranieri nelle 13 città dove si giocheranno le partite. Quindi 45 giorni di festa, questo si attende alla Nuova Zelanda, festa dello sport con 20 squadre partecipanti, ci sarà anche l'Italia, contano di vendere 1,65 milioni di biglietti, 1.650.000 biglietti, 2.000 giornalisti saranno accreditati da tutto il mondo e poi ci sono naturalmente tutte le forze schierate per mantenere questo tipo di evento, quindi si parla di 10.000 addetti al catering, di 5.000 volontari. Gli investimenti sono stati naturalmente corposi. È tuttora in corso un rinnovamento dei principali stadi neozelandesi, tra cui quello di Auckland, da cui scrive la collega Barbara Pezzotti, e per questo stadio è previsto un restyling da 256 milioni di dollari. Si vuole arrivare a una capienza di 60.000 spettatori per poter ospitare la finale. Poi ci sono naturalmente le spese per gli altri stadi, Christchurch, che era stato danneggiato dal recente terremoto nel novembre scorso, e altri poi fondi sono stati destinati ad altri stadi ancora. Il fiore all'occhio dell'organizzazione, conclude Barbara Pezzotti, saranno i lavori nel Viaduct, che è una zona residenziale e commerciale che sta sul lungomare di Auckland. Vengono costruite piazze, aree pedonali, piste ciclabili e poi ci sarà anche una struttura veneristica che si chiamerà La Nuvola, The Cloud, che dovrà essere destinata a ospitare concerti, iniziative, aree VIP, centro stampa e insomma diventerà un po' il cuore mondano di quello che è uno degli eventi sportivi più attesi di quest'anno appena cominciato. Ancora da Il, ma per pura pigrizia, devo ammetterlo, per pura pigrizia, nella stessa pagina in cui c'è questa interessante corrispondenza di Barbara Pezzotti c'è una curiosa tabellina che riporta il costo dei biglietti degli autobus. Questo dà l'idea, anche chi non avesse mai sfogliato Il, di quanto questo giornale possa essere anche fantasioso nelle sue proposte, quindi dando anche spunti inattesi di pagina in pagina. Stiamo prendendo appunto dalle pagine iniziali, si chiamano Global Report, sono sono delle pagine tematiche che sempre vengono ospitate nel mensile. Allora, quanto costa un biglietto giornaliero per il bus? Si scopre da questa tabellina che a Milano il costo è di 3 euro e tutto sommato è il costo minore che si può trovare tra le grandi città europee, perché se volete lo stesso tipo di biglietto a Stoccolma pagate 11 euro, sarebbero 100 corone, se lo chiedete a Hong Kong pagate 6,10 euro, se lo chiedete a Londra, biglietto giornaliero, quindi che vi assicura la possibilità di circolare su tutta la tratta, a Londra vi costerebbe 9,50 euro, così, pochissimo meno a Parigi, no, ve la cavate con 9,30 euro, quindi tutto sommato il biglietto dell'autobus per viaggiare un'intera giornata risulta decisamente più economico in questa tabellina. Viene specificato che si parla del biglietto per utilizzare la rete dei mezzi pubblici nelle zone più centrali, sono state sentite appunto le varie aziende del trasporto cittadino. Solo diciamo poco più cara di Milano e Bruxelles, 4,20 euro, è la città diciamo più economica se togliamo appunto la segnalazione di Milano. E allora, visto che stiamo parlando di traffico urbano, non so quanti di voi abbiano colto nei giorni scorsi, oramai la notizia, devo dire, circolata nella fine del 2010, nella fine dell'anno vecchio, non so quanti ci abbiano fatto caso, sto parlando della lotteria cinese per assegnare le targhe, ovvero per poter possedere un'auto. Cosa succede? Che appunto ci sono troppe macchine e allora gli abitanti di Pechino si trovano a non poter più comprare una macchina secondo il loro desiderio, ma devono aspettare appunto l'esito di una lotteria, l'esito di un sorteggio. Riprende questa notizia il venerdì, la ripresa il venerdì che ieri abbiamo trovato con Repubblica. Paola Benvenuto fa un resoconto, un breve resoconto di questa vicenda che vi leggo. Dice: dallo scorso 31 dicembre gli abitanti di Pechino non possono più immatricolare un'auto nuova e richiedere liberamente una targa. D'ora in poi nella capitale cinese le targhe vengono sorteggiate. Le autorità sperano così di combattere l'inquinamento e i terribili ingorghi che stanno strangolando la città. Pazienza se, scrive la Benvenuto, comprare un'auto diventerà un terno all'otto, perché sarà effettivamente così. Si dovrà partecipare a un sorteggio fortunato, questo è proprio il nome, e sperare di vincere una immatricolazione, quindi giocare alla lotteria per avere la possibilità di immatricolare un'auto. Saranno concesse soltanto 240.000 targhe all'anno, il che significa un terzo di quelle che sono state rilasciate nel corso del 2010. L'anno scorso, solo sulle strade di Pechino, sono apparse 750.000 nuove auto. In circolazione in questo momento risultano 4,8, praticamente quasi 5 milioni di veicoli. Peraltro, nei giorni che hanno immediatamente preceduto l'entrata in vigore di queste disposizioni, con la lotteria per poter avere accesso a una targa, gli acquisti delle auto sono, come era prevedibile, saliti alle stelle. Lunghe file davanti ai concessionari, ressa negli uffici che appunto sono addetti alle immatricolazioni, registrazioni di 30.000 veicoli in una settimana. Questo provvedimento fa parte di una serie di regole, nuove regole che appunto tendono a limitare il numero di vetture in circolazione o almeno a rallentare il ritmo con cui si sta crescendo. Naturalmente questo provvedimento dovrà poi fare i conti con il desiderio di libertà della classe media, che considera l'automobile uno status symbol e per di più uno status symbol utile. Segnala sempre nelle ultime righe del suo articolo sul venerdì, segnala Paola Benvenuto che la Cina, avendo venduto 13,6-13.600.000 auto, veicoli più in generale, nel 2009, ha così superato gli Stati Uniti nel settore del mercato automobilistico. Quindi oramai la Cina, con queste crescite a due cifre a cui oramai ci ha abituato, si è vista costretta a introdurre anche questa misura, che decisamente immaginiamo non sarà molto popolare tra gli automobilisti di Pechino, che non possono come dire, liberamente decidere di acquistare un'autovettura, di comprarsi un'autovettura e di ritirarla. Devono appunto sorteggiare, affidarsi alla sorte, affidarsi a una lotteria per avere il diritto di immatricolare un'auto. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, rassegna stampa dei settimanali. Abbiamo riferito di questa lotteria a Pechino per gli automobilisti. Non si può più comprare liberamente un'auto a Pechino, se volete dovete prima vincere il diritto a immatricolarla, solo questo diritto potete vincerlo partecipando appunto a una lotteria, quindi una sorta di superenalotto della targa, se volete vederla così, che è stato introdotto per limitare la crescita oramai ingovernabile dei veicoli in circolazione nella capitale cinese. Restiamo in qualche modo su un tema di traffico e restiamo sempre con i prodotti che vengono collegati ai quotidiani. Parliamo questa volta di 7, settimanale che trovate in allegato con il Corriere della Sera. Segnala che il 2011 dei pendolari non si preannuncia per nulla buono, perché secondo i dati di Legambiente, che ha fatto proprio un dossier, si chiama Pendolari a 2010, si prevede un taglio di 154 treni a lunga percorrenza su 600. Per i pendolari inoltre mancherebbe anche 800 milioni di euro rispetto agli stanziamenti dell'anno precedente. Risultano cancellati anche 1 miliardo e 215 milioni di trasferimenti alle regioni per un fondo che si chiama Fondo Ferroviario Locale, e questo, segnala sempre 7, nonostante in due anni siano aumentati in realtà i viaggiatori, quindi un aumento dei viaggiatori superiore all'11%, ma una diminuzione degli stanziamenti. In Lombardia si calcola che nella sola Lombardia ogni giorno 594.000 persone prendano un treno. Il che significa, e la proporzione funziona, fa effetto, è come se tutta la Basilicata si spostasse su rotaie. Quindi tra l'altro poi c'è anche una previsione poco rosea dalla finanziaria, perché dalla finanziaria appunto ci sono degli stanziamenti, ma per nuove strade e autostrade, quindi non una previsione di rilancio per quanto riguarda gli investimenti sulla ferrovia, ma invece una previsione di sostegno per il trasporto su gomma. Torniamo a delle cose internazionali, restiamo ancora un attimo su 7, sul settimanale legato al Corriere della Sera, lo trovate da giovedì con il Corriere della Sera. Si parla di furti nei negozi in tutto il mondo, segnala appunto una classifica che viene riportata sulle pagine Mix, le pagine che sono curate da Donatella Bogo. In tutto il mondo viene rubato l'1,36% della merce esposta nei negozi, farebbero più o meno 76 miliardi di euro, qualche cosa di più di 76 miliardi di euro, 132 euro per famiglia. Le merci più sottratte, potremmo anche dire più rubate, sono medicinali, i cosmetici, gli abiti, la tecnologia, le attrezzature in generale. E poi ci sono i paesi che appunto hanno più furti nei grandi magazzini. Risultano in cima a questa classifica l'India, il Marocco e il Brasile. Hanno fatto un'indagine commissionata proprio da un'organizzazione che si chiama Barometro Mondiale dei Furti nella grande distribuzione nei negozi, e l'Italia è risultata al 26esimo posto. Quindi, come scrive efficacemente 7, siamo un po' meno ladri rispetto a, in questa particolare classifica, rispetto agli americani, che si sono invece posizionati al 10° posto, i canadesi al 12° posto, gli australiani sono 15° e anche i francesi ci precedono al 19° posto. Quindi sembrerebbe che appunto in tutte queste nazioni e anche in molte altre, la Svezia, la Spagna stessa, la Gran Bretagna, ci sia una propensione a sottrarre la merce nei negozi superiore rispetto a quella invece italiana. I più onesti, giustamente, ci segnalano da 7 anche chi sono i vincitori di questa classifica. I più onesti sono i taiwanesi. A Taiwan si ruba meno nei negozi rispetto invece a tanti altri paesi. Questo almeno dicono le statistiche. Nello sfogliare i settimanali usciti in questi giorni ci siamo accorti, insieme con Anita Panizza, che come sapete mi aiuta a preparare questo programma, che c'era una certa ricorrenza di figure femminili in qualche modo significative. Ad esempio su Vita di questa settimana c'è una signora che si chiama Florence Noiville, che spiega come insegnare l'economia. Ora, chi ha avuto occasione di occuparsi o si è dovuto dovuto occupare di economia magari a scuola sa che una delle definizioni più gentili, e sottolineo più gentili, sull'economia è che l'economia sia una scienza triste. Allora che una signora invece si dedichi appunto alla missione di voler insegnare l'economia in un modo differente e presumibilmente meno triste allora di quello fin qui in uso, beh, può essere una cosa da segnalare. È la prima delle signore di cui vi parlo, saranno tre in tutto. Nell'articolo di Marco Dotti appunto questa signora ci segnala come autrice di un volume che si chiama significativamente Ho studiato economia e me ne pento. Perché se ne pente? Beh, perché naturalmente c'è stata questa crisi mondiale che sta avendo tuttora delle conseguenze molto pesanti. La signora Florence Maville non si limita alla critica, avanza una proposta semplice quanto concreta: è necessario rifondare l'insegnamento dell'economia per poter rifondare poi l'economia. Allora dice, quando le chiedono quando ha pensato di scrivere questo libro nel quale lei si mette in gioco, dice perché nel 2009 mentre leggevo le prime notizie sulle fabbriche in liquidazione, gli uffici che chiudevano, i problemi dei piccoli imprenditori, dei dipendenti e così via, ho ricevuto alcune telefonate dei miei amici, dei miei ex compagni di corso all'école, alla scuola di alti studi, che è un po' un santuario di quelli appunto che studiano economia in Francia. Le loro voci mi ricordavano che essendo passati 25 anni dal nostro diploma, qui indirettamente finiamo per rivelare un po' l'età della signora, violando le norme della galanteria, le loro voci, scrive appunto Dotti, mi ricordavano che dovevamo organizzare una festa e io mi sono chiesta che cosa ci fosse da festeggiare, visto che avevamo preso parte al disastro e sembrava che volessimo persino compiacercene. E lei dice, io parto da questa constatazione, che nessuno intorno a noi sembra voler essere responsabile di nulla, non gli economisti appunto, non gli esperti, non gli operatori, nemmeno le scuole. Nessuno che dinanzi al disastro economico che è stato generato dai titoli derivati, dai mutui cosiddetti subprime, abbia detto mi dispiace, ho sbagliato, scusate, ricominciamo da capo. Allora la tesi della signora è la crisi è anche il prodotto di questa impostazione mentale che riconduce tutto a fattori sistemici, come se il mondo dovesse andare nella direzione in cui sta andando, diciamo in un modo quasi fatalista. Si parla di crisi del sistema e questo, pur corrispondendo al vero, esonera individualmente i protagonisti di una simile catastrofe, perché nessuno si chiede quale sia il suo ruolo, il nostro ruolo, se includo anche me stessa, ancorché minimo. E allora forse è proprio l'insegnamento ricevuto a impedirci di vedere questi elementi che si oppongono a crescita e sviluppo? Questa è la domanda che lei si è posta, in cui appunto si risponde con questo libro dal titolo polemico Ho studiato economia e me ne pento, segnalato da Vita di questa settimana. Nella stessa settimana, da Donna Moderna, un'altra figura di donna molto importante, l'amministratrice delegata di Novamont, Katia Bastioli. Donna Moderna sceglie di parlarne e Antonella Trentini intervista questa signora? Perché con il divieto, come sapete, di vendere e produrre buste di plastica, shoppers cosiddetti, per la spesa, chi possiede invece un materiale di plastica biodegradabile, appunto come l'azienda diretta da questa signora, ovviamente ha un vantaggio competitivo molto forte, un vantaggio che è stato accumulato negli anni. Il prodotto d'avanguardia si chiama Mater B, ma lo possiamo leggere oramai sui sacchetti che sono di uso comune quando andiamo a fare la spesa. Più che diciamo la storia aziendale, interessante in questa intervista su Donna Moderna l'aspetto magari un po' più personale di questa donna, che a cui chiedono ma perché una come lei non è scappata all'estero. Dice, io la tentazione l'ho avuta effettivamente, perché all'università mi avevano offerto una borsa di studio a Berkeley, però mio padre si è opposto e io sono rimasta senza rimpianti. Certo, quando mi trovo a combattere con la burocrazia italiana a volte sogno l'efficienza nordica, ma nel mio paese comunque ho avuto occasioni straordinarie. Le chiedono anche quando è nata la sua passione, la sua sfrenata passione per la chimica, perché appunto Katia Bastioli racconta di una passione coltivata negli anni. Dice, non mi crederà, ma è stata una cosa cominciata a 11 anni, perché con la mia prima paghetta mi sono comprata un libro di chimica ed è stato amore a prima vista. Certo, non un acquisto che si immagina diffusissimo, però dobbiamo dire, a un po' di anni di distanza, un acquisto molto felice. Alle medie poi ho avuto la fortuna di avere un insegnante di matematica laureata in farmacia che ha capito la mia inclinazione, mi ha aiutato, mi ha dato persino delle lezioni extra e mi ha permesso anche di fare qualche esperimento audace. Una volta, per sbaglio, ricorda Katia Bastioli, ho bruciato la cattedra ed è rimasto un bel buco per anni. Insomma, le storie di successo hanno anche qualche insuccesso alle spalle, come in questo caso. La terza donna che vi segnalo soltanto da Focus Storia è una donna del passato, una donna che fu faraone. Non tutti sanno, che verrebbe da dire, ci sono state anche delle donne che sono state faraone, non è stata solo una discendenza in linea maschile. La cosa curiosa che racconta appunto Focus Storia è che nell'iconografia poi questa faraone è stata rappresentata con la barba, come si usava fare appunto per i faraoni di sesso maschile. E con questa ultima segnalazione si conclude la nostra puntata di Magazine 24. Vi ricordo che noi torniamo domani, domenica, alla stessa ora. Grazie a Fabio Cantadori questa mattina con me in regia, grazie come sempre ad Anita Panizza. A domani.